un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia. Sono pochi secondi dopo le 12.08, siamo in diretta, questa è Radio 24, questa è l'altra Europa, come ogni settimana, per raccontarvi l'Europa delle persone, delle storie, delle possibilità e delle opportunità. Quella che è la politica, l'economia europea viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo di proporvi anche altri punti di vista, una collaborazione in collaborazione con il network Euronet Plus. Le coordinate invece per seguirci anche virtualmente: Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, gli account Twitter e Facebook, oppure i nostri siti internet di riferimento, euronetplus.eu, per conoscere tutti i contenuti raccolti da questo network di radio europee, oppure il nostro sito radio24.it, da dove poter poi riascoltare la puntata e ritrovare tutti i contributi extra nelle pagine specifiche dell'altra Europa. Queste le dritte, queste le informazioni, si parte ogni settimana un viaggio. Oggi la prima tappa tocca proprio l'autunno. Diversity Food Project, Genetic Diversity Network, Small Scale Production, Diversity and Food, Management of Genetic Resources, Populations, Richness, Healthy Food, Transdisciplinarity, Multi-Actor Approaches, Connecting Scientific and Farmers Knowledge, Co-Responsibility, Cultural Diversity, Learning Process, Organoleptic Quality, Biodiversity of course, Participation, Health. Si chiama Grani e Melograni, è una due giorni, oggi e domani, alla Torre di Oriolo di Faenza si tiene questo evento organizzato dall'Associazione per la Torre di Oriolo, l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente, ARPA, e la Comunità del Cibo di Oriolo, con il patrocinio del Comune di Faenza. Cosa c'entra Faenza con Bruxelles? Cosa collega Grani e Melograni all'Europa? Beh, è finanziato in parte da un importante progetto europeo, e lo sapete, a noi piace raccontarvi questi progetti. Di tutto ciò ne parliamo con Riccardo Franciolini della rete Semi Rurali. Ciao Riccardo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico e un saluto a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Beh, già questo link tra grani e melograni, avete messo insieme graminace e uno dei frutti, insomma, più tipici di questo periodo e anche più buoni. Certamente questa è un po' la caratteristica del territorio in cui siamo e del lavoro che hanno fatto qui sul luogo, sulle varietà arboricole, in particolare su alcune varietà di melograno che qui hanno trovato un luogo di vocazione particolare. E biodiversità e sapori antichi, questo è un po' il cuore di questa due giorni, all'interno della quale c'è anche una parte di Diversity Food, che è questo progetto della Comunità Europea per la creazione di filiere alimentari sostenibili. Di cosa si tratta? Beh, il progetto Diversity Food è, intanto per cominciare, la continuazione di un percorso, perché il partenariato, il congresso di soggetti che lo porta avanti ormai dal marzo dell'anno scorso ha ormai una navigata esperienza di collaborazione attraverso gli ultimi programmi quadro della Comunità Europea, e sempre su progetti orientati a portare maggiore diversità nelle campagne dal punto di vista delle possibilità di scelta del seme, soprattutto da parte degli agricoltori. Mm-hmm. Quindi, insomma, è protezione di specie antiche e non solo, perché c'è l'idea proprio quella di valorizzare il prodotto, la filiera e l'indotto economico che può nascere attorno a questo seme, in questo caso. Certo, e è soprattutto nel caso dei diversi food, degli obiettivi che ci siamo dati con questo progetto, creare nuovo materiale genetico adatto per l'agricoltura che si trova in condizioni di marginalità per il momento, e si parla soprattutto di agricoltura condotta con metodi biologico, biodinamico, e quindi assolutamente non l'agricoltura di tipo convenzionale basata sull'utilizzo di input chimici. Si cerca di recuperare prodotti che si sono persi, perché di solito? Ma Più che prodotti che si sono persi, appunto pratiche agronomiche che si sono che sono evolute e sono cambiate. E con Diversi Food andiamo in una direzione che è stata tracciata appunto dalla nostra esperienza e è sempre più tracciata anche da una parte del mondo della ricerca, che è quella di lavorare non più con varietà pure, con linee varietali, ma con quelle che chiamiamo popolazioni, e cioè con materiale molto diverso, quindi nello stesso campo vengono seminate, per dirla in maniera molto semplice, semi individualmente diversi l'uno dall'altro, grande diversità in uno stesso campo, per riuscire a utilizzare quelle che sono, che è la capacità di adattarsi ai differenti contesti di coltivazione delle piante stesse. In particolare con Diversi Food lavoreremo su cereali e pseudocereali e su alcune varietà e su alcune specie orticole molto importanti, come per esempio anche il pomodoro, che qua in Italia ha una sua centralità. Certo, una mostra di grani antichi al centro di questi due giorni, in particolare oggi, che è stato un po' battezzato il giorno dell'oro antico, mentre domani la protagonista sarà la Grossa di Faenza, cioè la melograna. C'è anche un concorso per chi porterà il frutto più grande. Diversifood.eu, il portale per conoscere nel dettaglio il progetto, oppure semirurali.net, il sito della rete Semirurali. Grazie Franciolini, buona due giorni, buona melograna, buon grano, buon tutto. Buon proseguimento e un saluto agli ascoltatrici e ascoltatori. Grazie. Un euro post-it, le informazioni del traffico, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Euro post-it. Giuristi linguisti al Parlamento Europeo. Siete laureati in una materia giuridica e vi piacerebbe intraprendere una carriera internazionale? Allora attenzione, perché il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea cercano giuristi linguisti in madrelingua in italiano, greco, spagnolo, lituano o svedese per reclutarli nel loro staff permanente. I candidati dovranno avere una consolidata conoscenza di inglese, francese o tedesco e di una terza lingua europea differente dalle prime due. La sede di lavoro sarà Bruxelles e il contratto proposto sarà a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile di circa 5.000 euro per 40 ore di lavoro settimanali. Candidature entro il 10 novembre sul sito eucareers europa.eu/epso. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento l'Altra Europa. Era il 9 novembre del 1989 quando cadde il muro di Berlino, quindi lunedì è l'anniversario. Ma era, se non erro, il 20 novembre di 10 anni fa quando Angela Merkel prese il potere di fatto in Germania. Ed è un po' per celebrare questi due eventi che vi presentiamo un libro oggi appena uscito, o forse che insomma in via di presentazione, di arrivo nelle librerie. Si intitola Mutti, la Merkel spiegata agli italiani, edito da La Terza e scritto dal politologo e giornalista Michael Braun. Ciao Michael, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, un tentativo arduo quello di spiegare la Merkel agli italiani. Quanto la conosciamo la cancelliera, noi italiani? Ma intanto gli italiani conoscono semmai, diciamo, una metà di Angela Merkel, quella diciamo più dura, più rigida, quella che lei mette in mostra più sullo scenario europeo, mentre esiste tutta un'altra Angela Merkel, perciò il titolo Mutti, che vuol dire mamma, mammina in tedesco. Così infatti viene vissuta in Germania, è un po' l'opposto dell'immagine di cui gode in Europa. È una cancelliera vissuta come persona molto materna, una che si prende cura del suo popolo, che non ingaggia mai conflitti dirompenti, che ascolta le ragioni degli elettori, infatti è molto fissata sui sondaggi, quindi figura rassicurante al massimo in Germania. Questa è la grande differenza rispetto alla sua immagine in Europa. Cioè, quindi l'immagine in Germania è comunque di una donna anche dolce, diciamo, cioè materna in quel senso, accogliente, accudente. Sì. Oramai che più proprio nel senso del termine accogliente, se pensiamo alla sua ultima svolta sui rifugiati di appena 2 mesi fa, lì proprio abbiamo vissuto una Angela Merkel che è un po' anche stupito, persino in Germania, una Angela Merkel empatica, una Angela Merkel non più vissuta come personaggio diciamo molto sobrio, a tratti addirittura freddo, che calcola ogni mossa politica in modo preciso. È vero, ormai siamo a questo punto. Michael, ma tra l'altro ci sono tanti aspetti, al di là delle analisi politiche molto puntuali e molto attente, insomma le tipiche tue, ci sono anche aneddoti della sua vita che io per esempio non sapevo o avevo dimenticato. Intanto era una famosa scienziata lei comunque in Germania, era già attivista in politica ma stava facendo una carriera accademica come fisico. Sì, infatti... Noi non dobbiamo mai dimenticare che lei cresce nella DDR, nella Germania dell'Est, e lì si tiene completamente ai margini della politica, cioè non è né pro regime, non si iscrive al partito di Stato, per dare un esempio, sì, né anti-regime. Fino al 9 novembre dell'89, alla caduta del muro, lei non frequenta i gruppi di opposizione, solo dopo fa una svolta radicale nella sua vita. Archivia la sua carriera scientifica, ed era pur sempre una ricercatrice molto brava, e inizia tutta un'altra vita a 35 anni. Infatti entro un anno già è entrata nel Bundestag e pochi mesi dopo si ritrova ministro della Repubblica, lei che prima la politica non l'ha proprio frequentata, e questo già è un fatto molto sorprendente, ed è una delle mie tesi. Angela Merkel vive e cresce con le crisi. La prima è quella della caduta del muro, che le permette di entrare in politica, ma poi il ritmo di 10 anni, poi c'è la crisi del suo partito causata dagli scandali di Helmut Kohl intorno ai finanziamenti illeciti. Lì lei fa il grande salto, diventa capo del partito 10 anni dopo, nel 99-2000. Poi la terza crisi è quella dell'euro nel 2009-2010, dove assurge, se vogliamo chiamarla così, come ha fatto infatti il Wall Street Journal, a imperatrice d'Europa. È una che sa cogliere queste occasioni. Certo. Michael, ma è vero che la sera della caduta del muro lei era in sauna? È verissimo. Lei aveva questo appuntamento settimanale, tutti i giovedì in sauna con un'amica, e non ci ha rinunciato neanche quella sera. Infatti arriva con un po' di ritardo sotto il muro, e poi anche lei fa la passeggiata a Berlino Ovest, come decine se non centinaia di migliaia dei cittadini Berlino Est, ma infatti arriva con ritardo, non le premeva neanche tanto. Michele, stai pensando una versione anche per il popolo greco del tuo libro? Ma, senz'altro, io penso questo libro cerca di raccontare l'Angela Merkel con gli occhi di un tedesco che da anni vive però in un paese del sud europeo, e quindi segue e capisce le preoccupazioni di quei popoli che si trovano oggetto di una politica europea in larga parte definita a Berlino. Quindi cerco di unire questi due sguardi e secondo me potrebbe andare benissimo anche in Grecia per capire un po' come questo personaggio ha due facce. Il tuo ultimo capitolo si intitola Angela Merkel entrerà nella storia. Qual è la risposta? La risposta è infatti aperta. A mio avviso nella crisi dell'euro ha agito in una maniera molto attenta a mantenere l'euro in vita, ma a mantenerlo in vita secondo standard e interessi definiti in larga parte, infatti con occhio tedesco. Quello che a mio avviso manca è veramente una visione europea ed europeista che possa permettere a tutti i paesi nella zona euro di avere prospettive di prosperità e di crescita sostenibile. Ancora non vedo all'orizzonte niente di tutto ciò e lì lei avrebbe l'occasione di entrare davvero nella storia. Michael Braun, Mutti, Angela Merkel, spiegata agli italiani, edito da La Terza. Grazie davvero Michael e complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Dal 21 al 29 novembre torna la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Il tema di quest'anno è la dematerializzazione, ovvero come fare più con meno. La settimana è nata all'interno della Commissione europea con l'obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni e i consumatori sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall'Unione europea. Tutte le pubbliche amministrazioni, associazioni, organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini sono invitati a partecipare, a proporre azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale. Ci si potrà iscrivere alla SER 2015 fino al 12 novembre, collegandosi al sito ewwr.eu e registrando la propria azione. With my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, I can make a peace on earth. With my own two hands, and I can clean up the earth. Lord, with my own two hands. Condivisione, volontariato, mobilità, creatività, innovazione sociale, queste sono un po' le tematiche, sono i cardini di Erasmus Plus, delle tante declinazioni, in particolare quelle messe in atto da Agenzia Giovani qui in Italia, Agenzia Giovani che è protagonista in queste giornate fino ad oggi a Messina, dove c'è un grande ritrovo annuale dei volontari che stanno facendo, che hanno appena terminato un'esperienza di servizio di volontariato europeo. Sono oltre 600 i volontari che si sono dati appuntamento, erano partiti meno di un anno fa dal bel paese, oggi si sono ritrovati per raccontare la loro esperienza. Con noi c'è uno di loro, si chiama Matteo Saporiti, appena tornato da un servizio di volontariato europeo in Olanda, passato un mese in un campo vacanze per disabili, studia mediazione linguistica culturale a Milano e ha 20 anni. Ciao Matteo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti. Allora, cosa ti ha spinto a partire intanto? Perché questa scelta di dedicare un mese della tua vita al servizio volontario europeo? Beh, innanzitutto la voglia di sperimentare, la voglia di mettermi in gioco. Volevo vedere fino a che punto sarei riuscito ad arrivare. Ho trovato questo progetto che mi permetteva di partire, ma non per lungo periodo, per non lasciare i miei impegni universitari, e ho detto ci proviamo. Uh-huh. E sono rimasto molto soddisfatto. Una Messina che in questi giorni, ormai troppi giorni, appunto è nelle prime pagine, ahimè poche volte nelle prime pagine, sempre più nelle pagine secondarie della cronaca per il problema dell'acqua. Per voi invece che esperienza è stata vivere questa città con lo spirito del volontario? No, è stata un'esperienza assolutamente positiva, non abbiamo sentito la mancanza di nulla, anzi è stato assolutamente positivo, ecco. Mm-hmm. E qual è lo spirito comune che hai trovato nei tuoi colleghi, nei giovani, nelle ragazze, nei ragazzi come te che hanno scelto di vivere una settimana, un mese o anche periodi un po' più lunghi all'estero per dare una mano? Uno spirito di condivisione, nessuno di noi era in imbarazzo, non c'era, insomma, andavamo subito d'accordo, perché avevamo condiviso tutti la stessa esperienza e sapevamo tutti da cosa tornavamo ed eravamo tutti, insomma, sulla stessa barca. Matteo, ma è un servizio volontariato e poi c'è anche questa terza parola, europeo, quindi tutto ciò lo si va a fare oltre confini. È sicuramente un valore aggiunto. Cosa ti sei portato a casa, appunto, di spirito europeo da questo mese con i disabili? Mi sono portato a casa tante nuove conoscenze. Vivevo in una casa con volontari da tutta Europa, eravamo 12 nazionalità diverse e tutti quanti condividevamo le nostre esperienze di vita, le conoscenze sui nostri paesi, e mi sono arricchito veramente tanto. Fai mediazione linguistica culturale qui a Milano, cosa vuoi fare da grande? Il traduttore. Ah, ok, quindi insomma mi sembra che le tue idee siano molto molto chiare. Grazie davvero Matteo, complimenti per la tua esperienza e grazie per averla condivisa con noi. Ciao, buon sabato. Ciao a tutti, grazie. Agenziagiovani.it per tutte le informazioni sul servizio volontario europeo e anche su quello che sta accadendo a Messina in queste giornate. Ora ci fermiamo, un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Med Film Festival. Anche quest'anno, dal 6 al 13 novembre, torna a Roma il Med Film Festival, primo evento in Italia dedicato alla promozione e alla diffusione del cinema mediterraneo. Obiettivo della rassegna è tuffarsi nella realtà del Mare Nostrum senza filtri, paure e pregiudizi, per proseguire con rinnovata urgenza il lavoro di scambio e conoscenza tra i paesi delle due sponde. Il Mediterraneo è sempre più al centro del mondo e il cinema ne esplora i grandi temi, raccontandoci di una nuova Europa che lentamente si muove, spinta verso nuovi scenari dall'arrivo di popoli e culture. Un'edizione ricca di testimonianze dirette dai paesi coinvolti dall'esodo, ospiti prestigiosi e film in anteprima. Per consultare il programma visitate il sito medfilmfestival.org. L'altra Europa. Prisoners kept in inhuman or degrading conditions. Plaintiffs who have waited many years for their cases to be resolved in the... Ancora buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Quello che state ascoltando è un video di presentazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Che cos'è? La Corte dei Diritti dell'Uomo è un tribunale internazionale con sede a Strasburgo e si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Beh, dal 1 di novembre è cominciata ufficialmente la presidenza della Corte Europea dei Diritti Umani del giudice Guido Raimondi, quindi un italiano che abbiamo il piacere di avere qua con noi oggi all'Altra Europa. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno a voi, sono molto lieto di essere con voi. Allora, Presidente, insomma un incarico importante al di là delle formalità di uno di quegli organi europei che poi si conosce poco. Di fatto di cosa si dovrà occupare in questi prossimi tre anni? Beh sì, i miei colleghi hanno voluto affidarmi questa responsabilità e questo è un segno di stima certamente verso me, ma soprattutto direi verso il nostro paese. Il nostro paese ha dei problemi per quanto riguarda il funzionamento del suo sistema giuridico, nel senso, tutti sappiamo della lentezza delle nostre procedure giudiziarie, ma le sue risposte vengono considerate dai miei colleghi e quindi dall'Europa di buona qualità, e quindi questa è una ragione. Ma a parte questo, terrei a dire che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è, nel panorama del nostro continente, probabilmente l'istituzione che è più vicina ai cittadini, perché tutti possono rivolgersi alla Corte Europea se ritengono di avere subito una violazione di uno dei diritti protetti dalla Convenzione. Quindi questo un po' spiega anche le difficoltà di funzionamento che noi abbiamo, perché questa grande apertura appunto provoca una massa di ricorsi difficilmente gestibile. Ma ci può dare un'idea di un numero, cioè quante persone si rivolgono? I numeri sono abbastanza paura, devo dire. Fino a 2 anni fa la Corte sembrava soffocare sotto il peso dei ricorsi, perché ne avevamo 160.000. Ora, grazie a delle riforme che sono state poste in essere e al miglioramento dei nostri metodi di lavoro, siamo riusciti a dimezzare questo carico, che comunque rimane troppo, troppo importante. Certo, diritto alla vita, diritto a un processo equo, sì, in materia civile e penale, diritto sì, a rispetto. Sì, la convenzione protegge una gamma molto ampia di diritti. Quelli che lei ha citato sono i diritti più fondamentali, direi, quelli assoluti, quelli che non sono soggetti ad alcuna limitazione. Quindi lei ha citato il diritto alla vita, che è protetto dall'articolo 2 della Convenzione. C'è il diritto a non essere assoggettati a tortura o a pene o trattamenti disumani o degradanti, che è previsto dall'articolo 3. Certo. Il divieto di subire lavoro forzato, schiavitù, è l'articolo 4. Ecco, questi sono i diritti assolutamente non limitabili che sono previsti dalla Convenzione. E poi ce ne sono tanti altri, quello lei citava, il diritto ad un equo processo protetto dall'articolo 6, che è fondamentale per la democrazia, ma ci sono poi i diritti classici del costituzionalismo che è maturato sul nostro continente, su quello americano, e quindi penso al diritto alla vita, alla protezione della vita privata e familiare, alla libertà di religione, certo, alla libertà di espressione e alla libertà di associazione. E le vostre sentenze sono vincolanti poi per i singoli assolutamente, paesi? Sì. Assolutamente, l'articolo 46 della Convenzione stabilisce appunto che gli stati sono tenuti giuridicamente ad eseguire le sentenze della Corte, e l'esecuzione delle sentenze della Corte è un aspetto interessante, perché c'è un aspetto che riguarda l'individuo che è stato vittima di una violazione, e qui lo Stato deve innanzitutto pagare le somme che la Corte può aver ordinato di pagare in favore della vittima di una violazione. Non basta, deve porre in essere tutte le misure che occorrono per ottenere la cosiddetta restitutio in integrum, cioè per rimettere la persona che ha subito la violazione nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata senza la violazione. Ma non finisce qui, perché vi è anche un obbligo per lo Stato, quando la violazione riflette un problema di carattere generale, quindi un problema che per esempio deriva dalla stessa legge, ecco, allora lo Stato è anche tenuto a cambiare quella legge o quella misura generale che ha provocato il problema. Certo. La legge è uguale per tutti in Europa? Certamente il principio di uguaglianza è alla base di molte delle nostre sentenze. Abbiamo l'articolo 14 nella Convenzione che protegge dalla discriminazione. La discriminazione è vietata, secondo la Convenzione, in relazione ai diritti che sono protetti dalla stessa Convenzione. Quindi non c'è nella Convenzione una disposizione generale contro la discriminazione, ma c'è un protocollo numero 12 che estende questo concetto e quindi crea un divieto generale di discriminazione. Certo. Lei la Corte di Strasburgo la conosce bene, perché ci ha già lavorato in questi anni. Quanto le manca la sua Napoli? Molto. C'è una grande stampa di Napoli nel mio ufficio e quindi almeno la mattina quando entro nel mio posto, al mio posto di lavoro, posso dare un'occhiata alla mia città. Beh, insomma, mi sembra un buon modo per iniziare la giornata. ichr.coe.int per tutte le informazioni sul funzionamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Presidente, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei della visibilità che ha dato alla nostra istituzione. Buon lavoro di cuore, grazie ancora. Grazie finite, arrivederci. Europostit. Euraxis. Attenzione avventurieri della ricerca, un bus carico di opportunità si aggira per l'Europa. Dopo aver visitato Bruxelles, Parigi, Ginevra, Lisbona e Barcellona, arriverà anche a Catania Euraxis, il bus europeo della ricerca. Il bus Euraxis Researchers in Motion sosterrà in Piazza Università il prossimo 16 novembre dalle 9.30 alle 16, carico di informazioni riguardanti opportunità di finanziamento e offerte di impiego nel settore della ricerca. Un'occasione importantissima per studenti e giovani ricercatori che, grazie alle banche dati disponibili e alle spiegazioni dello staff Euraxis, potranno scoprire come accedere ai finanziamenti per la mobilità internazionale e per le opportunità di lavoro in Europa. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook Euraxis On Tour. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta L'altra Europa. Ancora all'altra Europa e ora si balla, lo si fa con il professore Augusto Sarti, professore del Politecnico di Milano, direttore anche del laboratorio di acustica musicale presso il Museo del Violino di Cremona, se non erro. Ciao Augusto, ben ritrovato qui all'altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato. Allora, come i nostri ascoltatori ben sanno, ci piace raccontare progetti europei anche divergenti, anche apparentemente bizzarri, ma dietro la creatività tantissime volte c'è poi ricerca, e la ricerca porta a ricadute importanti per la nostra quotidianità. E credo che sia il caso del progetto di cui hai accennato, di cui parleremo, un progetto in partenza, perché credo che sia proprio ai suoi primi passi. E di cosa si tratta? Assolutamente sì, è un progetto che sta partendo proprio in questi giorni. Si tratta di un progetto dal nome, da un nome un po' particolare, si chiama HoloDance. Sì. Che sta per Whole Body Interaction Learning for Dance Education, che significa interazione a tutto corpo, tecniche per imparare l'interazione a tutto corpo per l'educazione della danza. Ora, questa effettivamente è una cosa un po' strana per noi, perché io mi occupo di elaborazione di segnali audio-video, quindi segnali multimodali, come si dice, e quindi sembrerebbe una cosa completamente avulsa dal contesto della nostra ricerca. Però questa è un'iniziativa che è nata con una decina di partner europei, tutta coordinata dalla Linkeus di Roma. In Italia ci sono due partecipanti, siamo il Politecnico di Milano e l'Università di Genova, e ci siamo già occupati nel passato di analisi di immagini, analisi del suono, ovviamente lo facciamo tuttora, e assieme ad altre università e istituti di ricerca e aziende che si occupano di analisi del movimento, come la Motec Entertainment di Amsterdam, l'Athena Research Center del Greca, la Peach Note tedesca e così via, abbiamo creato un consorzio il cui scopo è quello di utilizzare le tecnologie più avanzate di tipo sensoristica, sì, multimodale, quindi qualcosa che, per esempio, tecniche che fanno il motion capture, sono le stesse tecnologie che si usano nei film per diciamo controllare i personaggi animati nei film di animazione. Quindi immagino di avere un corpo con tutti i pallini catarifrangenti e viene fatto il tracking, cioè l'inseguimento del movimento di ciascun arto del corpo, e questo per estrarre informazioni sul movimento. Ma abbiamo anche sistemi per il sensing della contrazione muscolare, biosensori di vario genere, ossigenazione, respirazione e così via, e naturalmente telecamere, microfoni, schiere di microfoni, accelerometri di vario genere. In realtà sembrano cose fantastiche, quindi anche impossibili da ottenere, però sono tutti sistemi che nel futuro potranno essere disponibili e anche utilizzati nella propria casa, anche tramite cose simili alla Kinect, la classica Kinect che si utilizza per fare anche videogiochi. Certo. Ma quindi di fatto l'idea è quella di analizzare i movimenti legati alla danza, studiarli, catturarli con queste tecnologie avanzate. Hai colto esattamente il senso. L'idea è quella non solo di catturarli, ma anche di costruire dei database di movimento che siano in grado di aiutarci nello studio di quello che è il linguaggio della danza, esattamente come abbiamo fatto già nel passato e stiamo ancora facendo per quanto riguarda il linguaggio della musica. Quando si parla di linguaggio, nel caso della musica, si parla di un linguaggio emotivo, un qualcosa che abbiamo utilizzato per evocare delle emozioni. Sì. Ed è un linguaggio strutturato, abbiamo la scrittura musicale, e il tutto ha, diciamo, una sua prosodia che viene richiamata proprio dall'espressività, anche dal linguaggio che descrive l'espressività. Nel caso della danza la situazione è ancora più ricca, perché stiamo parlando di un linguaggio visivo dove non solo si parla di un linguaggio emotivo, ma si parla anche di un linguaggio evocativo, metaforico. Quindi il gesto della danza può essere utilizzato per raccontare quelle cose che invece è molto difficile raccontare attraverso la semantica, attraverso le parole. Certo, ma viene utilizzato tutto questo è naturalmente tutto da studiare. Come si dice, i coreografi usano delle metafore per descrivere che cosa vorrebbero ottenere da un danzatore, e il danzatore lo capisce. Però nella didattica della danza questo può risultare anche particolarmente complicato quando il coreografo vuole fare delle cose particolarmente complesse. Certo. Nel qual caso può diventare utile avere a disposizione dei database di movimenti che possono essere controllati con tecniche di intelligenza artificiale, che siano in grado di comprendere una descrizione anche metaforica, allegorica, evocativa e così via da parte del coreografo, e siano in grado di sintetizzare il movimento utilizzando ad esempio degli avatar e visualizzati poi con delle tecniche olografiche. Quindi ci sono molte tecnologie avanzate che concorrono per creare un nuovo modo di fare didattica della danza, ma anche di fare lo spettacolo della danza. Certo, ma Augusto, ma ti aspetti delle differenze di questo linguaggio anche da nazione a nazione, o comunque il linguaggio della danza va oltre i confini? Assolutamente, ci saranno enormi differenze, non soltanto di natura culturale, ma anche di natura metodologica e di natura, ma anche, se vogliamo, del genere di danza che viene considerato. In effetti ci sono 4 scuole di danza che partecipano a questo progetto europeo. Per esempio c'è il Center for Dance Research di Coventry in Inghilterra, dove si parlerà di danza moderna, quindi i movimenti saranno meno strutturati dal punto di vista ritmico, saranno molto più evocativi dal punto di vista espressivo. C'è K-Dance di Tolosa in Francia, c'è l'Istituto Stokos di Madrid e c'è il Lyceum Club of Greek Women in Atene, dove si fa invece danza folcloristica. In ciascuno di questi casi le metodologie che vengono utilizzate e anche il potere evocativo dei movimenti sarà naturalmente molto diverso, e il linguaggio sarà molto diverso. Mentre nella musica si può parlare, almeno per quanto riguarda la musica occidentale, di un linguaggio universale, nel caso della danza non è proprio così. C'è la parte evocativa, emotiva, sarà in comune, ma il linguaggio espressivo per evocare le metafore giuste sarà diverso da cultura a cultura e da genere in genere. Fantastico, i tuoi studenti ti chiederanno di ballare, lo sai, vero? abbiamo già richieste di studenti che si occupano di hip hop o di altro che vengono a chiedere la tesi o che vogliono fare degli studi magari un po' più approfonditi a livello di dottorato all'interno di questo progetto europeo. Sarà piuttosto divertente. Augusto, prima di salutarci, un'ultima considerazione. Che valore hanno per chi fa la tua professione questi fondi europei che vengono stanziati per la ricerca? Sono assolutamente vitali. Noi, il nostro gruppo di ricerca, al Politecnico di Milano, ha già fatto qualcosa come 25-26 progetti europei in 20 anni e la quasi totalità dei fondi di ricerca proviene dal finanziamento di tipo europeo. Per cui abbiamo, se siamo riusciti ad avere un corpus di persone che lavorano costante all'interno del nostro laboratorio, una media che varia tra le 15 e le 20 persone che lavorano costantemente nel laboratorio, è sicuramente grazie a questi progetti europei. Per cui incoraggio tutti i ricercatori italiani a farne un uso continuativo, a mostrare la nostra creatività in Europa e nel mondo. Grazie davvero, in bocca al lupo, sicuramente ci ritroveremo per conoscere un po' meglio il progetto poi durante lo studio e l'analisi, per capire anche quelli che saranno i risultati finali. Buon lavoro, Augusto. Sarà un grande piacere, Federico, ti ringrazio ancora moltissimo, un saluto a tutti gli spettatori. Buon sabato, ciao. Augusto Sarti, Politecnico di Milano, e con lui chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra: Miriam Lucchetti, Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Claudia Scattone, tutto attaccato, Claudia, come piace a te oggi, in assistenza insieme a Gianmarco Ferronato. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete riascoltare la puntata, scaricare tutti gli europostite, trovare insomma le coordinate e le dritte relative alle tante informazioni che vi abbiamo dato. Come sempre potete anche contattarci direttamente o attraverso la mail l'altraeuropa@radio24.it oppure attraverso i social. Mi trovate sia su Facebook sia su Twitter. L'account è Federico Taddia. Ancora ciao, ancora buon sabato. A presto. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.